da 4, dipende, o da 2, quello che vuoi li metti. E lì però ci ha attaccato anche il condensatore, che sono 9 cm sempre di RG213. Lo stub va messo in corto, quindi lo stub che c'è giù, quello lungo, va messo in corto circuito alla fine. E invece il condensatore di su praticamente si allaccia al positivo, ma l'elemento radiante va attaccato alla calza, quindi praticamente non sarebbe neanche in contatto, però funziona benissimo. Ehi, vabbè, comunque se stai riuscendo è perché l'hai fatta bene, dai. Misuratele le stazionarie, sì, se no, no, la prima giorno che l'ho piantata ho rispettato le misure. Va bene, non ha stazionario, poi un poco. Io ho anche l'accordatore, perché uso anche qualcosina in più. A me, io ho anche acceso qualcosina in più, sempre una e umida. Anzi, adesso mi dà appena appena si sposta la lancetta, non è nemmeno una e uno. Se praticamente metto lo smitter, lo sincronizzo bene e mi dà uno e uno con le mie. Io correggo sempre, anche se è poca roba, ma la mia, ripeto, la mia antenna è a un palmo dal muro, capito? Per quello che la tengo sempre il più bassa possibile come stazionario, ma ripeto, già come di sé non ne ha antenne, ma non ne ha stazionario. Avanti, Tom. No, da me mi dà zero stazionario. Ogni volta, ogni morto di papa, che la misura è sempre zero stazionario. No, è perfetta, poi ti puoi spostare anche, io vado dai 25 fino ai 28 e sficcioli, 28 e 600, non si muove qua, di pochissimo, può aumentare da 1 e 2 agli estremi, ma non è niente, li abbatti subito poi con l'accordatore. A me, andando su il 28, 29 mi fa, si oscilla appena all'1, ma di poca roba, Sicuramente sul tetto va meglio, io purtroppo ce l'ho attaccata alla facciata, guarda, più di così non penso che possa ottenere. Avanti, Gianni. Ma quella di Torre non si muove, se tu esci dalla bretella per andare praticamente a fare la strada, per andare verso la tenuccia, la bretella, alla fine della bretella guardi, ce l'hai di fronte. Quella lì non si muove di un millimetro, è nera nera, tutta quanta fatta a cosa, vulcanizzata secondo me, vero tu? Vulcanizzata è quello che c'è fuori. Vulcanizzata, vedi solo il tubo che dà quasi sul bianco, però è grigio il tubo. Sì, l'ultima parte è vero, perché quasi tutta l'antenna è vulcanizzata su tutta la struttura. Ma Tore, che tubo hai messo? Tubo da 60 c'è un tubo da 60, è infilata dentro. 60, minchia, non è un bel grosso, non da 40, quello diciamo di scarico che si usano nei sanitari, no? L'hanno messo così, l'hanno riempito di pulitire nel spasso. 60 mi sembra un bel. No, non ricordo se è da 40 o da 60. Sto facendo parecchio che non salgo su. Quindi non sa che ci ha messo, non me lo ricordo se ha messo quello da 60 o da 40. Boh. 40 è quello, diciamo, che utilizzi gli scarichi normali, dai. Che insomma è una bella bestia. 60 mi sembra una cosa esagerata, cioè 6 cm, a meno che non abbia fatto telescopico, due pezzi, non so, una parte da 60 e una parte da 40, ma non lo so, ormai sto dicendo una fesseria. E comunque tiene bene, dai, senza tiranti né nulla. Ma ci sono due tiranti giù nel tubo, sono nel tubo giù però, quasi vicino, si può dire, al tetto, sono legati quasi lì giù. Prima ce li avevo con la mantova 1, ce li avevo i tiranti, ma tiranti di sagola di quelli di parametro, ce l'avevo. Ehi, la lenta grossa, o sagola proprio? C'era più di 15 anni lì, c'era. E ancora c'è. No, va bene. Come antenna cos'è? 5 ottavi? O cos'è? Una mezz'onda? 5 ottavi, 5 ottavi. Ed è lunga quanto? 2 metri e mezzo dovrebbe essere. Questa mi sembra sia un po' più lunga allora, questa mi sembra sia sui 7 metri. Però così era il progetto e così l'ho copiato io. se vanno bene a voglia, finché dura rimane in piedi. Io ce l'ho già più di due anni, ce l'ho qua, ma ogni tanto se ne scende qualche elemento collassa, però già ce l'ho davanti alla finestra, la tolgo fuori, è tipo un ombrellone, mi c'ha il porta ombrellone, la sollevo appena appena, la sistemo e la rimetto a posto. Avanti già. Ma se tu ti decidi che ci metti l'interno di quell'antenna, le metti su un tubo veramente buono e la fai, però lì tu hai fatto l'antenna di prova, quella è lasciata così, la fai di lusso, vedrai che ti dura l'interno, la fai, li metti pure tirare spasso col tubo come l'ha fatta attore Coso, Luca Flipper, è fatto il gioco. L'altro giorno stava provando un'antenna, una piccola, invece di 5 ottavi, stava provando un'altra che poi doveva venderla, se non sbaglio, la stava proprio testando. Beh, sa che mi arrivava più, più forte con quella corta l'antenna che con la 5 ottavi. Chi? Luca, Luca Flippe stava provando un'antenna prima di venderla, credo. Mi arrivava più forte con l'antenna, con la mezzo, una mezzona, adesso non mi ricordo che. Comunque la più corta, dai. Invece che la 5 ottavi. Come fossi? È possibilissimo, infatti gli ho detto, caspita, sto facendo benissimo, non bene, e qui attenuandolo, il segnale era più forte che quello dell'antenna più piccola. Vabbè, ma adesso facendo ancora Luca l'antenna. Credo di sì, ho visto che c'è sempre in vendita nella sua pagina, dai. Su Facebook lo vedo sempre, sta sempre vendendo roba. Pensavo che si stesse dando altre cose, perché stava facendo anche altri lavoriti, come si chiama, ricopriva, rivestiva praticamente specchietti di macchinette, queste cose qua. Sì, fa, come si chiama, cubicatura, sì, fa fucili, qualsiasi cosa, fucili subacquei, specchietti, come dici tu, è una... Si arrangia, dai, si dà da fare. Cubicatura, ce lo so. Sì, sì, la cubicatura. E io non so come viene attaccata questa roba qua. Se è tipo una vernice, si mette a bagno il pezzo, così. Non so che tipo fa, c'è quella che ci va la vasca, per esempio, tu ci spruzzi poi sopra, ma ci metti prima la pellicola, quella che devi attaccare, poi ci va una specie di reagente, va spruzzato sopra, e poi dopo un po' ci prendi il pezzo, lo immergi, ma devi anche saperlo immergere, non è che lo metti così, e se lo riesci una cagata, e praticamente quella pellicola si attacca al tuo pezzo, sembra verniciato. E puoi fare qualsiasi cosa, tipo un tipo serpente, qualsiasi maculato, è una cosa allucinante. Ma. Vabbè. A chi piace, a me non piace quel tipo di cosa, però c'è a chi piace. Un casco, roba così, te lo fai personalizzato. Avanti, Tore. Sapevo che faceva quella cosa, poi sapevo ultimamente che era in ospedale, mi hanno detto. Poi non lo so se è vero o se è falso. Beh, io è un po' che non lo sento, quindi spero che non sia vero, però ripeto, è un po' che non lo sento in frequenza. Ma hanno detto che era in ospedale, era, però non so se ne è uscito. Cosa ci aveva fatto? Non lo so dire, mi hanno detto solo che era in ospedale e stava un po' male, mi hanno detto. E poi non ho saputo altro nulla. E non so neanche se ne è uscito. No, non sapevo niente. Sì, ma non è che così ti sto dicendo. Speriamo che non sia... che sia passato tutto quanto, che stia bene. Io non penso che ci sia gente che si vede certe cose. Sono cose delicate, non sono cose da dire così. Vabbè, là. Speriamo bene. Auguri a Luca se è ancora in ospedale. Vogliamo dire, avanti Fra. Eh certo, speriamo sì. Già ti ha sentito qualcosa, vuol dire che qualcosa di vero c'è. Poi ripeto, come dici tu, speriamo che ne esca al più presto. Sicuramente la tua antenna la vede l'antenna di cosa, no? Dalla parte tua, Gianni. E allora che gli arrivo con lo scarico. No, l'antenna di Tore sicuramente si vede con la tua. ma non so, non saprei, ma penso di sì, penso che sia vero, perché io c'è tutta la zona del mare, tutta la zona, se tu vai sul tetto, vedi, tutta la zona del mare è tutta a Sassari, si vede, capito, dal tetto mio. Sono un po' negativo verso le gallerie, verso i paesi, cioè negativo no, perché a Muros già arrivo 9, 9, 5, però oltre diciamo sono un po' negativo. Però già c'è una bella posizione, poi c'è quel palazzone che sei alto, caspita dai, magari la messi io, metà di quell'altezza lì, avanti to, anche Torre sta benissimo. Non molto no, perché per esempio a Ottava cosa mi arriva, Marino mi arriva a 7-8 mi arriva, Sorso mi arriva a 9, mi arriva più forte Sorso che Marino. A me Marino mi sembra arrivare un ricordo 4 o 5 di segnale, quando liscio dai. Ma è che c'è questi picchi negativi sempre, non capisco perché quando parla si abbassa il segnale, o gli manca alimentazione, Sorso qui arriva 1 o 2 di Alghero, non ne parliamo, e Alghero ci arrivi Vittore? Sì, mi arriva, molte volte mi arriva 3, molte volte mi arriva 4 di segnale, mi arriva. No, non è sempre, secondo la giornata. E Alghero come ti arriva? Alghero mi arriva, ti sto dicendo, Alghero mi arriva a 3, 4 di segnale, però la radio la sento benissimo. Io qua ancora non mi sembra, non sono riuscito mai a parlare, forse una volta mi manda la telare, ma è un casino. Poi c'è dalla macchina, dal ghetto, io in macchina ho parlato con Sassari. Anch'io me la piazzavo nella macchina, c'ho un'antenna bella lunga, tutta in acciaio, con il coso in acciaio lo stesso, con la base in acciaio. Con quella mi sparava bene dal ghetto. Io sto usando adesso un'antenna che mi ha gentilmente dato, come si chiama, Eugenio, una da 1,80, 1,80 in acciaio, sì. Come ce l'ho io, ce l'ho anche io in acciaio 1,80, la più lunga. Sì, si chiama la, cos'è, la Sirio Turbo 2001. Questa che ho io è vecchia antenna, se no ci avrà un 25 anni. Anche questa è vecchia, no, non Sirio, ho sbagliato, è della LEM, chiedo scusa. Avanti Gianni. Appunto ti ho corretto per quella, perché è della LEM. E anche quella che c'è sul tetto è della LEM. È una super LEM quella che ho messo. È una bella bestia, eh. L'hai vista? La conosco, come te, l'avevo vista così su Facebook, poi no, di persona non l'ho vista dal vivo. E se la vedi c'ha la parte di sotto, che è quella che fila nel tubo, il blocco di sotto, tutto quanto in acciaio. Sono belle antenne, belle antenne. E invece i radiali ne ha 4, come sono, in alluminio? Sì, alluminio. L'alluminio sono in due spezzoni, va incastrato e poi avvitato con due viti. A prova di cornacchia secondo te? Non lo so, la cornacchia aspetta tutto, cazzo, è proprio. Guarda, mi ha aspettato quelli ripiri radiali. Sono per quello mie le antenne così con la bobina, la comodità di avere, di non avere radiali, però tutto lo si può avere, dai, avanti to. Allora io ho la Sigma 1000 che è 1,50 m quasi, poi la Sigma 1000 lo stesso che è più lunga. Sarà 800 la 1000. La PLC 800. Sicuramente sì, no, una è 1000, che è 1,50 m, è più HD me. E anche io, quella che avevo prima era da 1,50, 1,60, questa gliene mangia un palo. Io ho capito che fosse 2 metri, perché avevo letto su internet, se tu leggi la misura della LEM, della Turbo 2001, la dà per 2 metri. Infatti ho chiesto, ma è stata tagliata? Mi ha detto, no, l'ho presa nuova questa, non l'ho mai toccata. Anche la bobina è più grossa, lo stile è più grosso di quella da 1,60, si vede l'antenna più massiccia. Però l'attacco è uguale. Ascolta Fra, ma è 1,80 m da dove? Dalla bobina? bobina oppure misuri anche la bobina? No, no, tu la metti in piedi e credo che sia 1,80. Con bobina e tutto? Sì, sì, appoggiando la terra, diciamo, dall'occhiello, là. Prenderò la briga di misurarla e vedere un po'. Poi mi ricordo che era 2 metri. No, questa non è 2 metri, a meno che non sia stata fatta un modello precedente questa a quella da 2 metri, prima era 1,80 magari, 1,85 può arrivare, ma si vede che non è 2 metri in ogni caso, perché dalla mia che è 1,60 le mangia un palmo, forse nemmeno, però questo che rende bene. È la stazionale misurata, gli altri. Sì, sì, ma anche in macchina ho sempre l'accordatore, anche lì ho accordato, perché l'antenna non è sul tetto ma è dietro la ruota di scorta, ma ripeto, non ha, ho provato anche a staccare col pulsantino, stacco la cordatura, 1,5 tranquilla, dai. Ma senza accordatore? Senza accordatore non ci arriva il cavo all'apparecchio, dovrei cambiare il cavo e mettere un cavo più lungo, stavo pensando anche a quello. 5 metri il cavo, la misura è 5 metri. Ma la macchina è lunga, capito? Quella fa il giro da fuori, scende giù, entra dentro lo sportellone del cofano, cammina sotto la moquette, tutto quanto, fino ad arrivare, mi arriva praticamente, arriva sotto il sedile di guida, arriva. E lì infatti sotto il sedile ci ha messo l'accordatore. E poi da lì uno spezzone fino all'apparato. Ho capito. Ma già si può fare, si può anche allungare il filo, basta che lo fai sempre i multipli di 11. Beh sì, infatti, qualcuno dice che non è importante, se l'antenna è buona il cavo non è importante la misura. Volevo farla con col cavo, come si chiama, la bassa perdita, con l'H155, che la misura è la stessa, e faglielo più lungo. Avanti, Tore. Allora, l'ho misurata, l'antenna è 2 metri. Ho misurato 2 metri quella lì, la Sigma 1000. E allora vedi, la mia è più corta, la mia è 1,80. Poi ce n'ho un'altra, che è della LEM, quella viene 1,20 m. Poi ce n'ho un'altra che è 1,10 m d'altra. Quella che stavo usando proprio io è 1,10 m. No, questa è 1,80, ripeto, però qualcosa l'ho migliorata, qualcosa ho migliorato, avanti già. Interessante quello, ma te l'ha venuta come volevi tu? No, metto, per esempio me la stai in prova. Ah? Poi gli devo, c'è un pezzo che serve a lui, un attacco di una vecchia antenna, io l'ho già messo vicino già in macchina nel cassettino, appena ci incontriamo da qualche parte lo faccio avere. Già ci si può arrangiare, dai, basta aiutarsi uno con l'altro. No, va bene, tu figurati, l'altro giorno non mi ricordo chi è entrato in frequenza, un vecchio CB che adesso è rientrato dalla macchina, io l'ho parcheggiato lì nei parcheggi sotto casa, però una zona un po' aperta, mi arrivava, mi sembra 9, sono arrivato qua a casa, mi sembra è sceso di brutto, un segnale di 4-5 arrivava, perché praticamente c'è il palato in mezzo, quindi le antenne non si vedevano più, quindi c'è una buona ricezione anche quell'antenna. La Turbo 2001 è una buonissima antenna, era quella che usavano i camionisti prima nel campo, immagino. Perché regge anche gli Alfa Lima, capito, gli amplificatori, c'è una bella bobina grossa, il RAM sicuramente è grosso. Ho provato a smontarla per pulirla, vedere dentro se è tutto a posto, se è ossidata. E invece le brugoline girano già a vuoto, la chiavetta è già stanata, non sono riuscito a mollare lo stilo. E purtroppo chissà quanti anni ha. Non sei riuscito a mollarlo, è spanato all'interno dove si entra la chiave. Sì, sì, gira a vuoto la chiave. Perché sicuramente l'hanno stata con qualche cacciavite e quello è il danno che non fa. No, non ce l'aveva neanche toccata, proprio è talmente bloccata, conto che gli ho messo anche un po' di spray per sbloccarla prima di provare. Scusa. Sì, io vedevo mollare, che provo a vedere dal 23 che c'è, chi c'è a vedere se c'è Gio Maria ancora. Va bene, dai. Sentiamo, se in caso, se non c'è, ritorno qua. Non c'è problema, vai tranquillo. Ancora ci sei? Sì. Non vedi nessuno. non rispondi. E vabbè, questa stasera sono andato dal medico e mi ha fatto un vaccino. Il vaccino è influenzale. Ah, è influenzale. Ma il tempo tu hai fatto la Il 25 novembre l'ho fatto. E io lo devo ancora fare. Mi devo prenotare. Però detto che ci fai farmacia la prenotazione. Si fa anche in farmacia, se no te la potresti fare anche tu. Ma bisogna sapere il nome del sito dove entrare, eccetera, non lo so, non me lo ricordo, non l'ho mai fatto. Aspetta, non me lo ricordo come. Non me lo ammetto più, mi ti gira. Sono entrato io, solo che si è fatto un maccio e la mi si è bloccato. Poi me l'ha già fatto la farmacia, qua a Latte Dolce, me lo sono fatto. Ma l'hanno fatto dalle 2 alle 3, il 25. Ah, pagato. E se andate in farmacia? Capo, Franco, ma tra che te farà? No, io sul 20 ho sentito che c'era altra gente. Sul 20? No, ma non c'entra sul 20, che l'altro giorno non stavano a parlare di cose tecniche. E mi hanno praticamente detto di andarvene. È una cosa bella, eh. Eh vabbè, stavano facendo regolazioni, non so qualcosa, non mi interessava nemmeno starci, dai, se stavano facendo queste cose. Non mi interessava neanche a me. Sì, vabbè. Grazie. Io c'ho l'antenna per i che parte dagli 80 sino a 6 metri. Sino a 6 metri. Eccomi. Sì, affa. Ritornato. Sì, sì, l'ho cognato, mi ha chiamato, mi ha raccontato una mezza. Sembra una barzelletta, ma è una cosa che è successa davvero, dai. Praticamente questi parenti che abbiamo hanno preso quel ducato che c'ha tre pulsi davanti, no? Sono andato a rifornire e in due ci avevano messo praticamente la testa cintura invece di usare una testa, una li prendeva tutti e due questi due gemelli, grandi mi sono già grandi questa. E si lamentavano che era un po' stretta, e il tipo del riflettore ha iniziato a ridere, ha detto beh, forza, vedi che qua lì è per uno, devi usarne due cinture, una per ognuno. Io non so come sono questi gemelli, no? Che c'è ancora Tone, sì? Ci sono qua, stavo dicendo a Gianni che c'ho l'antenna nuova, dagli 80 ai 6 metri, il verticale. E che antenna è? Una... aspetta che cosa è, non me la metto più, metti ieri. C'è un dambe che non avevo, e ce l'ho giù in magazzino. Una multibanda, ma è roba costruita oppure comprata, diciamo, dalla fabbrica, fatta dalla fabbrica? Fatta dalla fabbrica, era dalla 27, fatta dalla fabbrica, e sotto c'è una scatoletta, è multibanda, dagli 80 ai 6 metri, fa 80, 40 scendendo, fino ai 6 metri. Quindi tu c'hai anche apparecchi, ma sei radioamatore, no? No, si verrà voto a studiare, mi devo prendere delle pastiglie per tenermelo in memoria, anche se comincia a fare appena la memoria. E allora mi pare che abbiamo una spesa unica, ne abbiamo un paio di utili di pastiglie, perché non mi ha mai tenuto neanche io. Andiamo bene, andiamo allora. Se riesco a ricordare tutto con le pastiglie, le do facilmente, guarda, 5 domande facilmente do. Poi adesso dice che bisogna approfittare perché lo dai online l'esame. Così dicono, poi non lo so. Avanti ancora, Tore. Quello è sapere tutto con le pastiglie, se ti ricordi tutto quanto, con quelle domande che ti fanno, riesci a uscirci. Ma però E se non ci vuole l'aiutino, un paio di amici, a computer, roba veloce, oppure gente che ne sappia, che abbia dato l'esame da poco, ti danno una mano, senza farci vedere naturalmente. Avanti Gianni. Basta mettere tutte le risposte attaccate al muro e loro non le vedo, da dietro il computer le guarda. Devi sapere quelle che ti fanno però, non lo so. Vediamo Roberto l'ha presa. Non so che l'ha presa, ma l'avevano anche bocciato una volta. come si chiama, mia moglie aveva fatto l'esame di CW, mi sembra, io prima facevo il CW, mi sa che adesso non c'è più bisogno, e poi non c'è più andata, dai, a Cagliari. Avanti Tore, così ho detto bene, adesso non c'è più l'esame di CW. Quando adesso se lo vuoi fare ti fanno una domanda solo, così so io, altro non so. Poi c'era, io avevo avuto quella dell'ascolto, che non so quindi tira giù buccia. E c'avevo un apparecchio che ascoltavo tutto quanto, tutto è. CW no, è eliminato, per la patente non si deve dare nessun esame di CW. Va bene Natalia, rientrato sì. Ehi. E dove eri finito? E da altre parti. Ancora ci sono? Sì. Dai, avanti Gianni. Ehi, ehi, ciao Natalia, buonasera. Buonasera. Sei a Natalino? Ciao Dore. Allora già mi conoscendo. E dove andiamo? Attenamente una busta. Ehi. Si pilotavano. Aspetta, non suonato il campanello? C'è Menoghi. Ah Natalia, attenamente una busta come si pilotava. Se vanno a cercare chi si ripugna, chi si è portante, famosa. E tutto già, se li viene tutto già, se li, e non si riesce a ciappare. Gianni. E io mi ricordo questo IS0 Pippo, che mi durava sui 40.000. Io, quello lì, era soltanto lì, ma non ci dava fastidio a noi. E vabbè già, erano altri tempi, dai. C'era l'ombra di pirati. Ma lì hanno fatto un bel returissimi. No. Hanno fatto una strage. Contro 5 una via in occhio vicino. E che non trovo, mi dice una baciata e io non va via nulla. E c'avevi anche a Mario lì vicino, a due passi. Ma c'avevo anche a Gian Maria vicino. Loro non mi disturbavano a me, ma neanche io disturbavo a loro. Chi disturbava ero qua in zona. Mi dicevano abbassare che gli stavo disturbando. E gli dici no, giù nuda, a Gian Maracchino come ti verrai giù. Quando si è attaccato un casino, bisogna essere tutti nello stesso canale, se no uno si disturba con l'altro. Quella è la cosa, anche io conto e alla verde la buon'anima è uno di fronte all'altro. Se a me mi faziano, mi diziano cosa, mi diziano, a me non mi disturbavano, però io loro erano sul 5 e io ero solo sul 7, dice che gli disturbavo, dice io andiamo, dove andiamo? Grazie che mi disturbavi, sì, magari mandavi furie e li disturbavi, non vuol dire no, poi due canali di distanza non sono niente, ci vuole poco a disturbare. Ma ce ne passavamo sul 15, ce ne passavamo, oppure solo sul 23 o sul 20 andavo, e li disturbavo lo stesso. Una di me arrivi dalla cosa ai nonni, mi arrivi dalle scopposte. Ma ne ho trovato tutto, ma lei non c'ha nulla. E non lo dica a loro cosa c'ho da disturbare. E vuoi che ti dica, Tore? Il 34 canali mi c'avevo, stavo usando, il 34 canali. E vuoi dire che va bene i baracchini di Dredi, Zietti, cosa vuoi ci dica? Ci sono i baracchini tipo la 48 che prendono splatter a Goku. Quando entrava Gian Maria con 48 non posso entrare perché mi splatterava tutti i canali. Sì, io guidavo i colpi da Gian Maria in macchina, fatelo conto, quella la 48, roba di colpi mi fudia. 34 canali, ma hanno messo un diodo in più, mi hanno messo, e mi hanno tolto il disturbo. Sì, avete parlato in due? Gli sushi, ma hai capito, ma hanno aggiunto a me un diodo, mi hanno aggiunto e mi hanno eliminato gli splatter. Ehi, ci sono quegli apparecchi che prendono un sacco di colpi, io mi ricordo quell'AM International, mamma mia, il multimode 2, multimode 3, non potevi, o eri con lui nello stesso canale, se no guai. Invece questi, il Galaxy Samurai, questi sono abbastanza assurdi come, come eccezione. Infatti, chi si multimode pigliava nei guetti di un altro mondo, era già un dopo il multimode 3. Ci ha buttato subito, è venuto alle punti subito. Poi il parete pigliava. Pacca che dai! Io che ne ha già fatto fuori subito, mi è durato due dì, mi è durato. Ma va preso e me l'ho venduto subito. Non serviva, I'm International, va che ne dai. Venduto subito, una tipa di punti la se l'aveva preso. E come che bene che invece sono un canale, perché tanto se ti spostavi non sentivi nulla. Ho venduto, a uno di ottavo l'avevo venduto. Allora, tanti anni fa, mi è durato due dì. Ha detto no, chiatta, è peggio che mai, metto in cucitura 34 canali e anch'io non tengo nulla. Questo qua, l'899, si sbratta e non ne prende quasi nulla. Questo che apparecchio è? Che lo fa? Blintec, l'899. Vuol dire che ha fatto bene. No, anche questo è difficilmente, a volte mi un canale mi posso, ma devo essere attaccati a me oppure con qualche lineare o con qualche apparecchio un po' salato, mi butta fuori un po' di spurie. Sennò difficilmente mi disturbano qua. Quando vengo che mi disturbano con qualcosa mi attacco che d'altro. E non sento nulla. Cazzo. Adesso cosa stai usando tu, Gianni? Gianni. Gianni, non c'è. Natali. Eia, già sono qua. Adesso come sei? Con la belva? Sì, con la belva. E gli ho messo la museruola. Come si chiama il tuo cagnolino? Quello che c'hai su WhatsApp? Quello che c'hai adesso? Quello lì è. Pericoloso? Cazzo, una belva. Come si chiama? Kurt. Ah, è Kurt, è Kurt. Avanti, Tore. Se lo vuoi te ne tolgo uno io, mi che è alto 80 centimetri alto. Cos'è, un leone? Non è no, ma quasi alla stessa altezza sono. Ed è bianco, è un incrocio con il dalmata e un cane da caccia. Ed è rimasto su. E dove lo tieni? In camera di mia figlia. Mia figlia è abituata a ruretura, abituata. E quindi intanto bisogna portarlo giù. Caspita, il cane, noi abbiamo un gatto. Il gatto è più indipendente, invece il cane deve portarlo giù. Oggi ho visto un filmato di un gattino. Un gattino, se o no, di 4 mesi, 4-5 mesi. Azzuffandosi con il topo. Ma il topo era bello grosso, mi. Azzuffandosi. E chi ha vinto? Il baraccone ha cominciato a strattonarlo, alla tuntunatura. Ehi Gianni, ti abbiamo rilanciato? Non c'è, riprendi già. Sono andato a cucchia a piccolino che mi sta dopo cambiare la pariolina. L'abbiamo immaginato, dai. Cappa gappa. Mi stavi chiedendo che apparato stavo usando adesso. Ehi, con cosa stai uscendo adesso? Con il Galaxy, Galaxy Saturnet. Oh, siamo tutti fortissimi qua, adesso siamo in 4, tutti con i segnali a 9.30 più o meno, dai. Chi è, chi è? Ciao Carlo, ciao. Stamattina ero lì al tuo QTH a lavoro. Stamattina Bologna è venuto con un'ora in ritardo, è un'ora in chi piace te. Là hanno problemi di nebbia in quel Bologna, l'altro giorno... No, il ghiaccio sulle ali, ciao. Così mi ha detto mia figlia, mi ha detto che hanno dovuto togliere il ghiaccio dalle ali. Carlo, come mi ascolti sulle quattro corsie? Gappa gappa, dai, già va bene allora. Infatti ci ho pensato, ma chissà Carlo se c'è stamattina. Andiamo bene tutti, dai, insomma, ci stai dicendo che andiamo bene, va bene così. Carlo, ti ascolto a malapena ancora. Forse, spero che ti stia avvicinando, così magari ti ascolto meglio. Adesso ti ho sentito comunque. Vediamo un po' se ti ascolta Tore. Tore, lo ascolti? Mi sta arrivando Santiago 2-3. Comunque sul 3 la radio l'ascolto benissimo. A voglia, anche se c'è la tarattana di QRM che lo sento. No, ti ascolto benissimo. Ok, e ti saluto. Comunque tu tu qua arrivi Santiago 5, arrivi Santiago 5, la radio è 3, dai. Però se metti un'antenna più lunga, tipo la Turbo 2001, vai alla grande, è lì che tutta quanta strada libera, anche se l'antenna è grande non fa nulla. Lo so, però l'antenna lunga il ricettore di trasmissione è molto più forte. Io uso la Turbo 2001 con la base magnetica e ti dirò che va molto bene. C'è una bella ricezione, una bella trasmissione. Adesso siamo arrivati a 7 di segnale. Siamo 3 km da Sassari, 3-4 km massimo. 9. Benemera, benemera. Qui è arrivato a Santiago 1, la prima volta che si sta muovendo l'ago. Però, ripeto, la mia zona non fa testo. Vediamo un po' se ti tira fuori Natalino, Natalino. No, un attimo, sto facendo una cosa. Negativo per Natalino, riprenditore. A me mi è arrivato 5-6 il segnale, che la radio è ancora più forte. Capito, 5-6 a me arrivi. Ehi attore, praticamente vedo le luci di Sassari adesso e sono quasi arrivato, diciamo, alla fine della quattro corsie, l'ultimo rettilineo, le curvette sono da Conforama tra un po'. 9-20 qua. E adesso già vado bene che mi sono avvicinato. Qua invece è sempre basso qua. La zona vuol dire, la zona alta vuol dire molto. Sì, adesso ti stai sentendo bene anche di radio, ma molto forte di radio. Io riesco a sentirlo forte quando si avvicina al cimitero, magari. Qui, ma dalla parte mia proprio, se no. Però poi non lo vedo. E poi quando passa lì in Costa Trinità, lì arriva a 9.20. Allora sì, arriva a 9.20. A te già la cavalcavia, te dovrebbe arrivare forte. Sì, ci va lì, arriva fortissimo. Beh, c'è una quattro corsie, ma la storte no. Non ho nessun varco, deve essere. A me ci hanno detto che vicino a Conforama, da me tutta quella zona io la copio benissimo. Si è abbastanza aperto tutto, io purtroppo sono troppo in basso. Io Monte Oro io lo copio benissimo. Allora, chiamo la gru. Se che faccio una gru e fammi piazza antenna. Una gru a noleggio prendiamo, parcheggio qua sotto fianco a casa e sfrutto il traliccio. Quindi ti conviene, ti conviene fare così, tanto cosa ne ottieni? Oppure visto uno, ha fatto una prova, praticamente ha preso un pallone, l'ha riempito di elio, un bel pallone robusto, non un pallone, era un tipo una mongolfiera in miniatura. Si è attaccato l'antenna e poi il cavo e l'ha fatto andare in alto e sfruttava, diciamo, l'altezza del pallone per avere un'antenna performante in aria. A Gavari dovevo minimo 500 metri di cavo. No, uno la può mettere anche a 20 metri, a 30 metri, quello che vuole. È che il vento un po' la faceva oscillare, capito? Perché il vento ti porta, tende a portarti via il pallone. Infatti, adesso non mi ricordo. Fai Natalino. Riprendo io, sono alla rotatoria qua dove c'è la Lidl. E adesso mi devo fermare un attimo qua per Daniele a fare una commissione. Nel caso ci sentiamo più tardi, già attacco da casa, lì già mi sentirete molto meglio. Ciao amore e grazie a tutti, Natalino, Franco, Gianni e tutta la ruota. Ci sentiamo più tardi nel caso. Ciao, ciao, buon acquisto allora, se stai parlando a fare degli acquisti, dai. Ci sentiamo dopo. Ciao ciao, ci sono un casino di macchine in giro adesso questi giorni. Alle prossime Carlo, dai un abbraccio da parte mia. Avanti Tore. Ok, ciao Carlo, stammi bene. Io non so se ci sentiamo perché alle 8 chiudo. L'orario mio è quello. Avanti. Non me la metto più. Gianni, ci sei? Io già ci sono, sì. Anche io fra poco chiudo tutto e vado a portare giù il cane, perché alle 8 lo porto sempre, dai, lui ha buttato così, va alle 8 di mattina e alle 8 di sera, a volte lo porto anche dopo pranzo, ma proprio quando lui non ce la fa. Tore c'ha orario di negozio, alle 8 abbassa la serranda, ma io pure faccio fame però, mi pare che sta arrivando l'ora dei papesini. Avanti Natalino, per salutare a Carlo se c'è ancora. Ciao Carlo, grazie del QSO, alle prossime. Ciao Natalino, ciao a tutti di nuovo. Per me città mercato. Ma ce n'è gente in giro? È tutto pieno di macchine qua, un traffico, anche alla rotatoria due ci stavano per comprare. Mamma mia, è un alveare, sta diventando questi giorni. Per quello bisogna fare le compere prima. No, bisogna bisticciare con tutti, almeno non regali a nessuno. E allora. Però io ho fatto tutto la prima, ho preso tutto prima, con tranquillità, anche la carne, i gamberoni, tutta la roba che non può prendere, sempre non trovi più nulla. Stiamo prenotando ogni ristorante, che adesso ci vuole anche il tampone, cioè non basta la spesa al ristorante, ti devi fare anche 15 euro di tampone a testa, boh. Ho fatto il terzo, io faccio fatto tutto, c'è anche la giubbotta anche con come sta, pensa un po'. Beh signori, io vi saluto a chi domanda a legare. Ok, ci risentiamo alle prossime. Ciao Gianni, ciao Carlo se ci sei ancora, ciao Natalino e ciao Franco, statemi bene, buonasera a tutti. Ciao Dore, dai a domani. Ciao Tore, buona serata, alle prossime, grazie alla compagnia. Avanti a chi tocca, buh. Ciao Tore, alle prossime. Oh, ciao. Oh, yeah. Vabbè, dai. Dove sei? Mi saluto anch'io. Possiamo preparare qualcosa. Saluto ancora Carlo, c'è ancora in ascolto. Alle prossime, ciao Gianni e ciao Natalino. Avanti Natalino. Anche tu stai andando via, Kappa. Kappa, ho fame. Io già cenato. Vabbè, grazie del questo della chiacchierata, alle prossime. Ci sentiamo fra. Sentiamo, adesso chiudo anch'io, ciao Natalino, c'è tutti quelli che sono in ascolto. Chiudo anch'io, vado a portare giù il cane. Ciao ciao! Capa, ciao a tutti! Sì, al binario 10 c'è qualcuno?